canzone sopra al beat. Yo. Resti solo uno sfigato, niente figa, tu non schiacci la tua auto e circosegum perché è piena di pagliacci. Il più bravo resti tu, le migliori sono le tue, ma com'è che c'è uno stile, un flow che mi sembrano due. Le mie sere non sono nere come quelle di Tiziano, io le passo tutte in bianche come l'apocalissano. Questa roba è troppo avanti, sai com'è, non c'è partita, prima io bombardo te, poi mi bombo la tua tipa. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Se avevo tanti soldi mi compravo un cabrio serio, invece tra la zona c'è un assegno cabrio di Saverio. Come ora sono a segno come se era Lupin, ora senti me, ti sei tu re, cazzo dimmelo deciso. Se re col cazzo corto quindi baby sei reciso, io per te sei preciso. Cosa che cosa faccio quando sto con i miei soci, filtriamo te in Italia per milioni di radici. Così bravi ragazzi, polmoni te li sfondi, il giorno dopo in piazza canto come Mario Biondi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. È da tempo che mi sforzo, cerco di metterti a fuoco, ma tu bro non sei nessuno e non ci esci nelle foto. Questo suono che ti porto, tu lo sai che tu molesto, se non compri poi il mio disco, tanto per me fa lo stesso. E io mi fumo te, la tua crew e tutta la tua scuola, è bello che vi rollo dentro una cartina sola. Ma tu pensa se poi rap fosse proprio come il cibo, tu staresti già digiuno, invece io il pranzo servito. Io non leggo neanche lo spartito, sono un ignorante ma ha bocciato anche la cepo. Se mi segui troppo quasi te ne vai l'aceto, io che non ho ceto, vuoi che mi parlate io non ci credo. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Come ogni sera in tasca abbiamo i grammi, tu fai figo coi bambini che si credono grandi. Per fare un ritiro prendi tutti i tuoi risparmi, se non scemo parli, tu non puoi nemmeno confrontarmi. Tu non puoi nemmeno confrontarmi, non puoi confrontarmi. Non puoi confrontarmi. Sopra il beat, yo.